es un Radio Wombat. Esta es Radio Wombat. Radio Wombat. Hot Wombat. Era mezzanotte e 17, ora oceanica, quando raggiunsi la periferia di Alphaville. Il mio giornale ha teleprenotato una camera per me. Lei è il signor? Ivan Johnson. Che giornale? Figaro Pravda. 344. Si è iscritto al controllo degli abitanti? Dovrà farlo, anche se si ferma soltanto per le feste. Al 344. La sua valigia, signore. Secondo piano, per favore. Prego, signore. Niente affatto, fila via. Da questa parte, signore. La valigia, signore. È stanco, signore? Desidero riposare, signore. Per di qua, signore. Se è stanco può riposare, signore. E qua, signore. La stanza da letto è di qua, signore. Cosa sta cercando? Guardo se c'è la Bibbia, in ogni camera ce n'è una. Ci crede lei? Sì, sì, certamente. Le metto i tranquillanti nella stanza da bagno. Io sto benissimo, grazie, prego. Il signore vuol fare un bagno? Sì, devo riflettere. L'aiuterò, signore. La cravatta, signore. Thank you. Schiavi delle forze oscure, della materia corporale, e con la vanità, l'ansia e l'indolenza ci anestetizzano la mente. È già la seconda volta che quel rotto in culo si interrompe. Queste manipolazioni sulla psiche sono state identificate 8 mesi fa da un ristretto numero di scienziati, i quali scoprirono incidentalmente che questi segnali provenivano da... Accidenti, fa venire il mal di testa. Non dirlo a me. L'operatore si è impegnato al massimo per fare questa schifezza. La nostra natura umana si è lasciata sopraffare dalle istituzioni esistenti. Crediamo di essere ricchi e invece siamo precipitati nell'abisso dell'aridità e della miseria, privandoci di ogni aspirazione, espressione e valore umano. Questi artifici ci mantengono in uno stato di banalità elevata, impedendoci di vedere la degradazione con la quale abbiamo schiacciato il mistero di Dio che è in noi. E se continueremo a vegetare nella vigliaccheria, nella cecità e nel mutismo, sarà la fine. Si sono impadroniti della terra e ci manovreranno indisturbati finché non li scopriremo. E quando ci avranno annientati, useranno la melma della nostra materia per concimare i loro giardini. Signore e signori, siamo lieti di comunicarvi che Green Village diventerà un bellissimo complesso residenziale con ampi parchi e nuove strutture. Forza, vieni, non ti muovi. Ve l'avevo detto. Dobbiamo andare per strada. Martellato dalle loro violente scosse. Incertezza. Papà, ho mal di testa. Anch'io. Thank you. La volontà antecedente non è che una mera velleità. M'accorgo in ogni circostanza che i miei pensieri e la mia volontà non sono in mio potere. E che la mia libertà non è che un fantasma. Ma libertà, ma in fin dei conti che cosa significa? Significa che fra due azioni, una buona e una cattiva, tu puoi scegliere. Senti un po', ma Dio sa tutto, no? Quindi se io scelgo l'azione cattiva, lui lo sapeva già prima. No, certamente, Dio lo sapeva da sempre. Ma come posso dire di essere libero se ciò che farò è già stabilito? Eh? Questo si chiama libero arbitrio. Dio ti dà la grazia per aiutarti a scegliere il bene. Ma se lui sa che io sceglierò il male? È lui che lo ha deciso, mica io, no? E perché ha deciso che sceglierò il male? I disegni di Dio sono imperscrutabili. Oh. Ehi, guarda. Ah? Questo si chiama libero arbitrio. Dio ti dà la grazia per aiutarti a scegliere il bene. Questo si chiama libero arbitrio. Dio ti dà la grazia per aiutarti a scegliere il bene. Ma se lui sa che io sceglierò il male? È lui che lo ha deciso, mica io, no? Ma se lui sa che io sceglierò il male? È lui che lo ha deciso, mica io, no? Ma se lui sa che io sceglierò il male? È lui che lo ha deciso, mica io, no? Ma se lui sa che io sceglierò il male? È lui che lo ha deciso, mica io, no? Dio ti dà la grazia per aiutarti a scegliere. Ma se lui sa che io sceglierò il male? È lui che lo ha deciso, mica io, no? E perché ha deciso che sceglierò il male? I disegni di Dio sono ma libertà, ma in fin dei conti che cosa significa? Significa che fra due azioni, una buona e una cattiva, tu puoi scegliere. Senti un po', ma Dio sa tutto, no? Quindi, Dio sa tutto, no? Dio sa tutto, no? Dio sa tutto, no? Quindi se io scelgo l'azione cattiva, lui lo sapeva già prima. No, certamente, Dio lo sapeva da sempre, Dio lo sapeva da sempre. Ma come posso dire di essere libero se ciò che farò è già stabilito? Ah? Questo si chiama libero arbitrio. Dio ti dà la grazia per aiutarti a scegliere. Ma se lui sa che io sceglierò il male? È lui che lo ha deciso, mica io, no? E perché ha deciso che sceglierò il male? I disegni di Dio sono imperdibili. Thank you. L'estate scorsa ho visto un film russo. C'era un'inquadratura identica alla vista che si ha da questa finestra. Solaris. Come dice? È il titolo di quel film. Solaris. Sì, forse. Ho dimenticato che il titolo è Solaris. L'unica cosa che non mi sono dimenticato è quell'inquadratura. E come mai? È un po' troppo confuso per i miei gusti. Confuso? Solaris è uno dei film più belli che abbia mai visto in vita mia. Cosa c'è di così bello? Nel film appare la bugia a 24 fotogrammi al secondo. E poiché è tutta una sequela di bugie dichiarate, ne deriva che la bugia diventa verità. Che la bugia e la verità siano la medesima cosa. E lo dicono tutti gli altri film, che però mascherano la bugia e la spacciano come assoluta verità. In Solaris, a mio avviso, vi è l'unica possibile utopia. Thank you. posto per rimpiattarlo come si deve. Cerca il jean, ecco. Si agita un momento per rimpiattarlo come si deve. Cerca il jean, ecco. Si agita un momento per rimpiattarlo come si deve. Cerca il jean, ecco. Si agita un momento per rimpiattarlo come si deve. Cerca il jean, ecco. Si agita un momento per rinfrescarlo come si deve. Verse il gin, ecco. Si agita un momento per rinfrescarlo come si deve, si serve. Verse il gin, ecco. Si agita un momento per rinfrescarlo come si deve, si serve. Rafael sa bene che il Martini Dry si beve come lo champagne, va un po' masticato. Oh, sentite, ora faremo un esperimento interessante. Va a chiamare il tuo autista. Il mio autista? Cosa vuoi da lui? Ora lo vedrai. Cara, se vuoi, questa era la moda a New York nel 1935. Puoi aggiungere due gocce di Pernod, ma io direi di no. Maurizio, puoi venire un momento? Subito, eccellente. Mi farebbe piacere che bevesse un bicchiere con noi. Tenga. Grazie, signore. Alla loro salute, signori. Alla sua, Maurizio, alla sua. Va bene, Maurizio. Ora può andare, grazie. Permettono, grazie. L'avete visto? Questo è proprio l'esempio di come non bisogna bere il Martini Dry. Questo è proprio l'esempio di come non bisogna bere i Martini Dry. Avete visto? Questo è proprio l'esempio di come non bisogna bere i Martini Dry. Avete visto? Questo è proprio l'esempio di come non bisogna bere il Martini Dry. Parlando? Non è al sangue. Ah, a proposito, Alma, quasi me ne dimenticavo. Stamattina in farmacia mi hanno dato un'idea per un nuovo regalo di Natale, uno scontrino per visite mediche valido 2 anni. È un'idea meravigliosa. È riconosciuto da tutti i dottori e dalla maggior parte delle cliniche e degli ospedali. Vale anche per le visite ginecologiche, per i pronto soccorso e per interventi voluttuari, fra cui il cambiamento di sesso. Spero. Non so che dire, madame, sono desolato. Qui non è mai successo una cosa del genere. Spero voir les mets de votre goût. Santo cielo, Gaston, perché non fai qualcosa per fermare questi dannati terroristi? Perché è ora di pranzo. Circondate la zona. Poi non tocca al mio dipartimento. Sai una cosa, Alma? Oggi una notizia mi ha lasciato senza fiato per la contentezza. Leggi, Sam è stato promosso al reparto recupero informazione. Oh, ma è una cosa fantastica. Davvero fantastica. Congratulazioni, Sam. Adesso basta. Non voglio né essere promosso né lavorare a recupero costi informazioni. Quanto a te, mamma, non immischiarti mai più nei miei affari. Oh! E Gaston, vuoi del pepe? Vuoi del pepe? Scusate, devo andare. Sam, aspetta, non hai ancora mangiato il dolce? Non voglio nessun dolce, non voglio promozioni, non voglio niente di niente. Ma certo che vuoi qualcosa, avrai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti. No, non ne ho. Non ho nessun sogno. Thank you. Ciao, Bomb. Stai dalla mia? Certamente. Ti andrebbe di fare due chiacchiere? Con piacere, lo trovo costruttivo. Ciao, Bomb. Stai dalla mia? Certamente. Ti andrebbe di fare due chiacchiere? Con piacere, lo trovo costruttivo. Bene. Voglio farti una domanda. Tu come lo sai che esisti? Ma che diavolo sta facendo? Cerca di stabilire un dialogo, suppongo. Sento di esistere. Sì, d'accordo, ma come lo sai? È intuitivo, direi. L'intuizione non è una prova. Dimmi come fai a stabilire oggettivamente che esisti. Beh, penso, quindi esisto. Questo è molto giusto, complimenti. Ma come fai a sapere che esiste tutto il resto? Me lo rivela il mio apparato sensore. Ah, qui ti volevo. In che senso, scusi? Apri bene le orecchie, Bomba. Ora arriva la domanda. Come sai? Ripeto, come sai che quello che ti dice il tuo apparato sensore è vero? Rifletti su quello che ti dico. Tutte le informazioni di cui sei in possesso ti arrivano soltanto attraverso i sensori. E tutte le tue informazioni sono semplicemente un fiume di impulsi che stimolano il tuo cervello elettronico. In altre parole, quello che so della realtà esterna mi viene riferito attraverso connessioni elettriche. Esatto! Così? Questo vuol dire che non so neanche se la realtà esterna esista sul serio o no. È proprio così. Interessante. Peccato che non abbia tempo per questo argomento. Ma per quale motivo non hai tempo? Perché devo esplodere tra 75 secondi. Adesso, Bomba, ascolta molto attentamente la prossima domanda. Devi dirmi qual è l'unico scopo della tua vita. Esplodere, ovvio. E lo puoi fare una volta sola, giusto? Sì, è esatto. Tu non vorresti mai e poi mai esplodere sulla base di un dato errato. Certamente no. Ricapitoliamo. Hai appena ammesso di non avere alcuna prova assoluta e tangibile dell'esistenza della realtà esterna. Sì, è vero. E di conseguenza non hai la prova assoluta che il sergente Pinback ti abbia ordinato di esplodere. Ho ricevuto chiaramente l'ordine di detonazione. La mia memoria è eccellente per queste cose. Sì, certo, certo, ricordi bene, ma tutto quello che puoi ricordare è una serie di impulsi elettronici e poco fa hai ammesso che non possono avere una connessione certa con la realtà che ci circonda. Vero. Ma se è così, io non ho prove che lei stia realmente parlando con me. Siamo arrivati al nocciolo della faccenda. Non puoi assolutamente contestare il fatto che non hai prove certe. Quindi, se decidi di esplodere, potresti... Tra 9 secondi. Potresti farlo sulla base di un dato errato. Non ho prove che il dato fosse errato. Ma non hai neanche prove che sia giusto! Devo pensarci su. Thank you. Lo sai, li ho fatti apposta per te. I capelli. Qualcosa di speciale? Per un uomo speciale? Non siamo proprio sicuri di essere noi. Non essere stupido. Non beviamo più da tempo. Ma qui puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi bere senza ubriacarti. E puoi mangiare quanto vuoi senza ingrassare. Ora metti da parte tutti i tuoi dubbi, lasciati andare e rilassati. Woo! È buono? Ma dove ci troviamo? È tutto nella tua mente? O nella mia mente? Li senti questi? Ma questo non è reale. È molto più che reale. Sei nel tuo computer e io nel mio. Siamo collegati da chip di memoria e fibre ottiche. E qui siamo al sicuro. Yes. Ma è tutto quello che vuoi. Ora mi si parla di tutti i tuoi dubbi. Puoi bere senza ubriacarti. Lo puoi senza. Reale. Siamo collegati da centri di memoria e di poi senza ingrassare. Vediamo, vediamo. Dare il rilascio. Ma questo? Te ne sei preso. Ricardi? Per un po'. Fatti apposta qui, lasciati andare e rilassati. E puoi mangiare quanto vuoi. Rilassati. Tu vuoi senza ingrassare. È molto più che reale. Ma questo non è reale. Non vediamo più da te. Questo non è reale. È molto più che memoria e fibrotiche. Lasciati andare e rilassati. Qui siamo al sicuro. Zero. Ora metti da parte tutti i tuoi dubbi e lasciati andare. Qui siamo al sicuro. E poi. Ma questo non è reale. Per un uomo speciale. Ma qui poi. Non si può. Non essere fare tutto quanto. Mangiare quanto vuoi. Non siamo proprio sicuri di essere. Salti tutti i tuoi dubbi e lasciati andare. Ma questo non è reale. È molto più che reale.